Yo, Rimaliena. Yo, yo. Caro me stesso, devi fare sempre il buono. Non c'è posto in paradiso se usi male questo dono. Trova il giusto suono e non ambire mai al trono. Passi lunghi e duri ti faranno sentire un uomo, ma non ascoltarlo, fai di tutto per riuscire. Usa pure il ricatto se ti dovesse servire. I buoni non vincono mai, lo dovresti sapere. La gavetta è inutile, tanto quanto l'amore. Cosa vai dicendo, sei pazzo, ma per favore. Cosa gli vuoi insegnare, tu che sai soltanto odiare. Tanto con te sarà inutile parlare. Capisci soltanto male, ti nutri del suo dolore. Perché non scompari, c'hai già rotti i coglioni. Deve fare tanti soldi e non fare le buone azioni, altrimenti farebbe il prete mentre lui fa già l'MC. E con questo che vuol dire, lui lo sa, non è così. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Ogni due minuti schizzo come una lince, ma tanto poi alla fine è sempre il cuore che vince. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Lotta tra titani, se mi tremano le mani scrivo fino a domani ballando come gitani. La mia parte cattiva è in conflitto con quella buona. La prima li bastona e la seconda li perdona. Una brucierebbe ogni ignorante in ogni zona, l'altra se la ride, se un umano non funziona. Il conflitto interiore a profusione, un altro round tra la parte più impulsiva e la ragione. Come te lo spiego, come quando un concertone schiacceresti la testa l'MC più babbalone. La mia parte buona parte con buone intenzioni, mentre l'altra metà appunto diaboliche invenzioni. Piove l'acqua santa in uno spazio ristretto, sta battaglia da una vita mi si gioca nel petto. Un angelo ed un diavolo in spalla come i cartoni, a turno un giorno a testa prendono pattoni. In combattimento in assetto da combat, ascolto quella buona ma con l'altra bombo glass. Parti che si spingono per dominare me, per rovinare me o mettere pace se non c'è. La parte che fa rap non abita in sto pianeta, ma illumina il cammino come fosse una cometa. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Ogni due minuti schizzo come una lince, ma tanto poi alla fine è sempre il cuore che vince. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Lotta tra titani, se mi tremano le mani scrivo fino a domani ballando con le gitani. Mano a mano che l'ingegno si evolve diffondi, dalla cima ai bassi fondi con concerti rotondi. Che la gente sappia che, veda che qui non c'è una via d'uscita per chi pensa solo per sé. E invece devi farlo, pensa solo a te stesso. Prendi la distanza, avanza solo col tuo successo. Degli altri devi sbatterti nei propri coglioni. Prendi il mondo sotto i piedi, pensa solo a fare money. Sì, ma con i soldi non compri felicità. Attitudine e passione, zero carta fedeltà. Zero punti, alla fine non prendi nessun regalo. Come chi non lecca culi e rimane fermo al palo. Al palo ci metto soltanto la cubista. Non ascoltarlo, prendi, bevi e dopo scendi in pista. Questa vita ai buoni li fa solo faticare. Prendi soldi e scappa e dopo comincia a ballare. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Ogni due minuti schizzo come una lince, ma tanto poi alla fine è sempre il cuore che vince. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Lotta tra titani, se mi tremano le mani scrivo fino a domani ballando con le gitani. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Ogni due minuti schizzo come una lince, ma tanto poi alla fine è sempre il cuore che vince. La parte buona e la parte cattiva, la parte che ragiona e la parte radioattiva. Lotta tra titani, se mi tremano le mani scrivo fino a domani ballando con le gitani. Rimaliena.